Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Qualche settimana fa abbiamo parlato dei SEU, sistemi efficienti di utenza, e di come un decreto attuativo dello scorso giugno abbia finalmente chiarito le prospettive, in particolare legate al regime fiscale a cui saranno soggetti gli operatori dei SEU. Ma se prendiamo il settore dell'efficienza energetica, purtroppo sono molto più numerosi i decreti attuativi mancanti, attesi da lungo tempo, rispetto a quelli che il governo ha evaso. Questa situazione, per cui si sa che le regole dovranno cambiare, ma non si dice come, è la peggiore possibile per qualunque investitore e finisce per bloccare ogni processo di innovazione. Cerchiamo allora di fare il punto sui decreti attuativi mancanti nel settore dell'efficienza energetica con Livio De Santoli, che è presidente di AICAR, che è l'associazione italiana che riunisce i progettisti termotecnici. Buonasera De Santoli. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora, c'è un elenco abbastanza lungo da fare, mi pare che intanto manchino dei decreti che riguardano proprio la modalità di calcolo e misura delle prestazioni energetiche degli edifici, è giusto? Cosa manca esattamente? Quelli che sono proprio alla base di un qualsiasi costrutto per quanto riguarda l'efficienza energetica in edilizia. Per esempio, tutta la questione della certificazione energetica degli edifici è ancora sottoposta a una revisione completa, quasi rivoluzionaria. In particolare ci sarà un nuovo modello del certificato energetico che modifica completamente quello attualmente esistente. Cambiano proprio le modalità di calcolo, no? Calcoli che bisogna fare sugli edifici. All'interno di questo nuovo modello ci sono delle modalità ancora più stringenti del passato, ci sono più indicatori. Ricordo che c'è una cosa bellissima che verrà considerata, che è il raffrescamento estivo, certo. Che adesso invece non era considerato. Ed è una follia, perché se andiamo a Sud Italia spendono più di quello che di riscaldamento, invece sono obbligati a pensare a non consumare d'inverno, è una stupidata gigantesca. Un altro decreto attuativo mancante riguarda le ESCO, di che cosa si tratta? Dunque, le ESCO sono queste società per la gestione dell'energia, sono elementi e strumenti importantissimi, perché con le ESCO è possibile finanziare gli interventi di efficienza energetica senza pagarli, nel senso che sono loro che avanzano i soldi e poi vengono remunerati con i benefici ottenuti dal punto di vista dell'energia. Il problema delle ESCO, così come il problema degli esperti dei gestori dell'energia e così come anche i sistemi di gestione dell'energia, faccio l'esempio della diagnosi energetica che è fondamentale, addirittura sancita per legge a carico di tutte le grandi imprese e anche delle piccole e medie imprese, pensate a tutto il tessuto produttivo italiano, deve essere regolamentato dalla legge con dei dispositivi attuativi che riguardano soprattutto gli schemi di certificazione e l'accreditamento dei soggetti. ESCO fino adesso non erano regolamentate, bastava avere nello statuto scritto noi siamo delle ESCO, efficienza energetica, siamo delle ESCO. In realtà adesso le ESCO passano il vaglio, e quindi è una cosa molto positiva, di un ente terzo che deve dire che cos'è un ESCO e se tu puoi essere un ESCO o meno. Ecco, ma qui che cosa manca? Manca la metodologia, manca lo schema di certificazione e di accreditamento da un ente terzo che si chiama SEDI. Per cui noi non siamo ancora in grado di dire quali sono le ESCO vere e quali sono le ESCO solo di facciata. Voglio solamente precisare una cosa, che le diagnosi energetiche che vengono fatte dalle ESCO, ma soprattutto dagli esperti in gestione dell'energia che stanno nella stessa situazione, sono degli obblighi di legge. Quindi siamo obbligati a fare la diagnosi, ma non siamo sicuri di quello a cui ci affidiamo per fare la diagnosi. E poi come si fanno? Benissimo. Ecco, dunque, questo sarà invece l'anno dei contatori di calore. Sarà obbligatorio installarli in tutti gli impianti condominiali centralizzati. Ricordo agli ascoltatori che servono a suddividere la spesa di riscaldamento all'interno dei condomini in base ai consumi dei condomini, anziché in base ai metri quadri, ai cosiddetti millesimi. E questo senz'altro è un passo avanti per andare verso una gestione più efficiente dei consumi energetici in queste realtà. Però lei dice che siamo comunque davanti a un'occasione persa. Perché? Dunque, questi strumenti sono importantissimi perché permettono di sapere in bolletta che cosa è consumato, ma direttamente l'utente deve aspettare la bolletta, appunto, prima di sapere che cosa è successo. Probabilmente si poteva saltare questo impasse per dire che l'utente poteva controllare direttamente, che poi è nelle intenzioni del del legislatore comunitario, perché... Cioè il punto è che chi si mette in casa il contatore di calore non vede in tempo reale i propri consumi di energia, mentre sarebbe utile, no, per darsi una regolata. È molto utile punto per punto, minuto per minuto, sapere cosa sta succedendo, in modo tale che l'utente possa anche costruirsi il proprio profilo di consumo, sì, a seconda delle sue esigenze, perché le persone vivono le abitazioni in modo più disparato, certo, certo, a seconda dei metri quadrati. E dalla sommatoria finale che viene fuori dalla bolletta non si può ricostruire come ci si è arrivati. Che invece è un peccato, perché invece si sa esattamente minuto per minuto cosa succede. Certo. Rendere disponibile questo dato è fondamentale per sapere effettivamente come costruirsi il proprio profilo. Grazie, grazie Livio De Santoli. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento domani.